Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Milano, sono nella periferia della città, in un punto dove si snodano le autostrade che vanno verso il nord, verso i laghi. Eppure in questo luogo, che naturalmente sembrerebbe non avere bellezza artistica, si incastona come un gioiello la Certosa di Milano, o Certosa di Garignano, perché così si chiama il quartiere. Un edificio importantissimo per la storia dell'arte, quindi invito tutti a fare una sosta prima di allontanarsi dalla città, ad andare a vedere questo edificio che oggi si presenta nell'aspetto tardo rinascimentale. La Certosa è molto antica, come tutte le certose, era di origine medievale, si trovava ai tempi in una meravigliosa campagna con i prati. Pensate che Petrarca, che fu ospite dei Certosini, ricorda nelle sue lettere questo luogo ed era colpito dal fatto che i dintorni erano pieni di conigli, i prati intorno a Garignano pullulavano di conigli in libertà. La Certosa venne rifatta nel 500 e nel tardo 500, ecco il motivo della nostra visita, nella parte dietro l'altare, nell'abside, c'è un ciclo di affreschi cinquecenteschi che sembrano abbastanza convenzionali. Si trattano di un'opera realizzata da un maestro di origine veneta che si chiamava Simone Petersano, che si vantava di essere un allievo di Tiziano. In effetti si era formato con Tiziano. Ma noi andiamo a vedere questi affreschi perché siamo colpiti da un fatto che è il seguente, che in questo luogo, nel 1584, accanto a Petersano, che fece la decorazione di questa parte finale della chiesa, c'era il giovane Caravaggio. Petersano è stato il maestro di Caravaggio e in questo luogo il giovane Caravaggio deve aver aiutato a macinare i colori, deve aver aiutato a mettere i cartoni sopra le pareti il maestro, cioè deve aver imparato a usare la pittura grazie appunto a questo maestro molto pratico e molto abile nella tradizione degli affreschi. Infatti questi affreschi sono ancora perfettamente conservati. La chiesa comunque è una meraviglia anche nella parte della navata, perché poi all'inizio del Seicento intervenne Daniele Crespi, un altro dei grandi pittori del primo Seicento lombardo, a raccontare le storie del fondatore della Certosa, San Brunone. Insomma, vi ritrovate tra gli svincoli dell'autostrada in una meraviglia rinascimentale e del primo barocco lombardo.